Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento insieme all'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Saluto nuovamente il presidente Carlo Garofolini. Benvenuto Carlo. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Beh, insomma, si avvicina Natale in qualche modo e quindi abbiamo anche delle buone notizie, ed è il secondo caso in poco tempo che l'Adico riesce a risolvere in maniera positiva. Sì, come hai detto te Francesco, è una notizia positiva che noi con grande soddisfazione i nostri uffici accolgono proprio in queste ore, e dal secondo caso, ma già se ne stanno preannunciando altri all'orizzonte. E si tratta esattamente di una persona che si è rivolta a un noto studio dentistico e dopo aver speso 8.000 euro per fare tutto un intervento sui denti, si è trovato nei giorni successivi a lamentare tutta una serie di dolori, ritenendo appunto il lavoro eseguito completamente insoddisfacente. Stiamo parlando di un ottantenne pensionato, no? Sì, stiamo parlando di un ottantenne che si è rivolto a un ufficio, a uno studio dentistico, ha proceduto con una protesi dentaria, sembrava che le cose andessero anche abbastanza bene inizialmente, l'ha pagato addirittura, dobbiamo dire, un po' incautamente anche tutto in anticipo, però poi nei mesi successivi agli interventi la persona ha cominciato a lamentare dolori e disturbi sempre più forti ed intensi, oltre che frequenti. Preoccupato un po' che questo dolore non passava, si è rivolto all'Adico lamentando un po' quanto le è accaduto. Di che noi come ufficio l'abbiamo invitato a rivolgersi ai nostri studi convenzionati, di cui hanno rilasciato una perizia su quello che era stato un lavoro mal eseguito, e su questa vicenda dobbiamo dire che alla fine si è conclusa positivamente, perché la perizia emergeva come di fatto il lavoro non era stato eseguito bene, addirittura se non dovevano spendere altri 100.000 euro per che l'intervento venisse un po' sistemato rispetto a quello che era l'operazione che inizialmente questo anziano si era sottoposto nei mesi passati. Certamente il studio dentistico ha riconosciuto il valore delle perizie e probabilmente anche gli errori che hanno fatto in questi interventi. Dobbiamo dire che proprio di queste ore, come questa vicenda si è conclusa positivamente, restituendo 13.200 euro a questo signore che è tutto contento, è potuto e potrà sistemarsi quelli che insomma era un'operazione che per tanti anni lo hanno visto un pochino sotto i ferri. Ecco, quindi per una volta i denti sono dolori ma poi sono anche sorrisi in questo caso. È vero, sono anche sorrisi, però è anche vero che troppe volte ci si tende a dare una fiducia troppo, tra virgolette, io dico incondizionata. È vero che quando si parla di denti si parlano di soldi, molte volte aprire una bocca significa allestire un cantiere, tante volte bisogna amarsi anche di pazienza, ma soprattutto di portafoglio. Le strategie oggi sono tante, c'è chi parla di turismo dentale dell'est, c'è chi parla di turismo dentale low cost, però certamente quando una persona spende penso che debba ritenersi soddisfatta e di quello che dovrebbe essere un intervento che dovrebbe essere riuscito. E nel caso specifico invece dobbiamo fare un plauso anche al signore che insomma ha voluto andare a fondo, perché non ha voluto accontentarsi di quelle che erano ogni volta delle spiegazioni che questo studio dava, ma ha voluto andare in fondo e farsi una perizia, e alla fine dopo pochi mesi la ragione gli è stata data, restituendogli tutti i soldi che ha speso per il lavoro, ma anche quelli necessari per sistemare il lavoro che non è stato a nostro avviso a regola d'arte. Ecco, perché certe volte uno ha come l'impressione di dire sono proprio sfortunato, invece a volte è bene sentire anche un'altra campana, insomma rivolgersi perché no ad un altro studio dentistico e capire se qualcosa è andato male, è andato storto come in questo caso ci hai raccontato. Una situazione quindi che ha visto l'Adico intervenire a buon fine, come capita anche in tante altre occasioni, insomma, non solo nel settore dentistico. Sì, come in tante altre occasioni, ricordiamo che comunque l'Adico ha anche uno studio dedicato apposta denominato obiettivo risarcimento, proprio per invitare le persone, a prescindere che sia un studio dentistico di fiducia o qualsiasi altro ente, ma noi riteniamo che insomma quando si spende si deve per forza pretendere i diritti. sia quando si acquista sia quando si riceve un servizio. Nel caso del signore certamente è un caso significativo e che, come hai detto tu, è un caso che comunque merita l'attenzione, perché comunque i nostri diritti non devono mai essere lesi, ma bisogna essere anche capaci di testarli e voler andare fino in fondo quando non si è convinti di aver ottenuto quanto insomma si è acquistato in questo caso oppure prescritto in termini di operazioni. Ricordo che c'è anche il sito associazionedifesaconsumatori.it dove ci sono i numeri di telefono e tutte le cose che servono per contattarvi. Grazie quindi al presidente Carlo Garofolini, l'appuntamento è rinnovato la settimana prossima. Grazie a te Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.